alle 10. Hola, hola. Hola, hola. Smarmettato, proprio smarmettato. Neanche un aereo, dimmi tu. Ce n'è roba, eh? Roba mezzo scassata, guarda in giro. E poco fa mi stavo vedendo un video del compianto Francesco Cossiga, che stava parlando di robe radiantistiche. Ah, su YouTube? Sì. Sì. Non so se forse le hanno tolte le antenne, dopo tanti anni che erano lì buttate. Lo sai, sì, dove abitava, in via di fronte un po' più giù al museo. Sì. Era una direttiva e qualche di polo. E io ho visto di persona a quell'hotel che c'è in via Roma, lì adesso non mi ricordo come si chiama, lì erano anche i miei clienti tra l'altro, e l'ho visto uscendo da quell'hotel di persona. Ma la usava poco a causa degli impegni che aveva sempre. E lui stava a Roma più che altro. Infatti era abbastanza, insomma, usata poco e niente, dai. Sì, infatti, cosa? Se andava a abitare con la casa qui, lui andava in hotel a abitare, capito? Quando veniva qua. Leonardo da Vinci si chiamava. Qui, l'albergo? Sì. Ah, sì, ci sono stato tantissime volte lì. No, qua c'era, che abitava in via Principe Soriana, c'era cosa, ma l'ex ministro degli interni, adesso non mi viene il nome, non ce lo so, la lingua. Pisano. Sì, Giuseppe Pisano, ci sono andato tante volte a portare dei documenti. Si figura. Oh, yeah. C'era sempre la polizia lì dove aveva lo studio lui. Sì, eravamo in pieno pericolo di rischio. E infatti dava loro, quando andavo sempre c'era scorta, davo questa comunicazione per te, la prendevano e io me ne andavo subito, non stavo lì a meno che non ci fosse risposta, ma di norma era solo in andata. Consegnare documenti e via. Sì, mentre invece Coso Luigi Berlinguer, quello abitava in via dove c'è Multineddu, c'è presente, lì c'aveva lo studio anche l'abitazione. E Multineddu ci vorrebbe tanti posti di supermercati, quindi non so quale stavi dicendo. E dico Multineddu vecchio, è quello. Il primo di Piazza Fiume. Ho capito. E tutti i tempi ad alta tensione, eri sempre, insomma, un po' così, Non era una bella epoca, diciamo. E infatti. Isanca, io ci ho anche parlato alla radio con lui. Prima non era anche lui in CB. E infatti, ce l'hanno fatto scappare perché lui è entrato in incognito, io l'ho conosciuto subito che era lui. Dopo è entrato uno rompendo le scatole, non lo sai come succede. Invece di farsi gli affari suoi la gente. Io, per carità, lascio perdere. C'è la gente, guarda, a volte vuole presata a catà al muro. E infatti è scappato, l'hanno fatto scappare, cosa devi dire, chi è, chi non è, fate affari duri. E per farsi vedere che sono tuoi, poi sono degli imbecilli, non capiscono che ci sono tante cose in ballo e la delicatezza è d'obbligo. Valla a spiegare a certe persone, sono un po' più tonti che la valla, come dicono a Sassari. Ehi, tavoletta, mi. Che l'ha detto che è tavoletta? Se uno è tonto, è tonto, non c'è nulla a fare. quelli devono parlare con Muro, come diceva qualcuno. Beh, ma il fatto che neanche il Muro le dà retta, capito? Il Muro con loro non ci vuole parlare, anche lui se ne accorge, dice, ma io devo perdere tempo a parlare con questo che vorrebbe parlare con me. Infatti, ovviaia. Giulio magari si stava guardando la gara, ma ho visto il ciclismo poco fa. Ma però si stia guardando quello di Vidiolina, che c'era... oggi c'è la processione, no, che va, che tocca all'ospedale a Santa Maria, poi va a Cosoli a San Pietro. E lì vanno al policlinico, all'ospedale, insomma, ci vado in un bel giro. E io l'ho vista dal vero, l'avevo vista. Entrava il vescovo lì. Sì, anche a me è capitato. Vabbè, tutto sto lì, quindi Giulio in ritardo, sono a meno che non abbia approfittato, anche se la giornata è un po' strana per uscire, è un po' ma sembra indecisa. Ma io non sono uscito perché avevo questo mal di schiena, non ne ho avuto voglia di uscire. Chissà cosa mala sorte è questo mal di schiena fisso che ho. Credo Natalia, è quella si chiami vecchiaia. Ehi, può anche essere. Io mi sono tutto rotto, perché anche oggi ho dovuto usare il picco, no? Ma chissà che per domani riesco a combinare qualcosa, a finire questo lavoro. Ho trovato tutti i cavi interni, no, di questo citofono che si è sfasciato, tutti bagnati, tutti messi male. O entrano le formiche e si mangia il tutto, oppure la pioggia che fa il resto. Purtroppo ogni tanto ce n'è una, quindi devi stare sempre lì a fare questi lavori. Però sempre meglio di stare in palazzina, è sempre meglio. A costo di rimanere tutta la vita facendo muratore, elettricista e qualunque altra cosa. Sì, l'importante è stare bene. Io sono più di un anno che sto male. Sono anche stufo adesso. Sono uscito stamattina, vedi? Mi sono trattenuto con un amico lì. Ho portato il cane, già sto uscendo, già, non è che non sia, però mi viene questo mal di schiena, o è da quando ho dimagrito che non lo so, perché da quando ho avuto questa pancreatite non ne sono servito più. Natali, sono cose un po' lunghe quelle, sai, in un periodo così disgraziato che non c'è un'assistenza proprio di quelle che ci vorrebbero, è ovvio che le cose che non guariscono come prima, ecco, tutto lì. Poi se chiedono un appuntamento dopo l'anno, all'anno 3, sono tutte cose che ti costringono, che ti piacciono a trascurarti, e ovviamente insomma bene non fa questo. Io so, sono vivo per miracolo. Che poi ce l'ha avuta questa pancreatite lo stesso quell'amico mio che era stamattina con lui, però l'hanno ricoverato in continente a lui e non c'era il Covid quando è successo, e dice che i dolori quando ne è uscito lui non ne aveva più. Beh, io tutto a dolori, io mi sono dovuto fare un'operazione alla colicisti perché avevo i calcoli, poi all'ernia, perché portandomi all'ospedale deve essere, o c'era già questa lesione, me ne fissa l'emia e io meno male sono riuscito a rientrarmela, però mi sono dovuto fare operare perché subito me ne fissa pure un'emia inguinale. Sì, quando inizi, guarda, per carità, sono cose brutte, poi quell'ospedale, io ho i campi liberi, guarda, mamma mia. C'è qualcuno che voleva entrare? Punto di domanda? No, non sento nessuno. Ci ho dovuto mettere anche lo squarcio molto molto alto, perché prima c'era questa propagazione terribile, veramente. E io mi ho preso il vizio, prima non ne mettevo mai gli squelci. Anche io mi ho preso il vizio di mettere lo squelci per non avere il fuscio. Io sono, buonasera a tutti, dai. Sono rientrato appena dal mare, devo scendere giù a farmi la doccia. Buonasera. Buonasera anche a lei, signor Antonio. Gabba. Ciao Giacomo, buonasera. Ciao Anto, oggi in anticipo. Ah vabbè, oggi è domenica. Quindi giustamente c'è il riposo del guerriero. Niente, siamo qua, stiamo facendo quattro chiacchiere così senza impegno. Sì, no, non lo so. Io mi sono goduto un sarido gioco, devo andare a lavarmi, se no divento. Perché ho fatto il bagno in mare, quindi sono un po'. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo, che va a farmi la doccia. A preparare anche qualcosa a mangiare. Aspetta un attimino, dimmi se l'acqua è ancora fredda o se è calda. Dal mare? E allora, quella da bere e quella di mare. Così così era oggi. Quindi ce ne stiamo tranquilli ancora, dai, se no anche la mia schiena ne risente. La vecchiaia è un po' complicata. Va bene, dai, vai a farti quello che devi fare, preparati a mangiare e ci sentiamo dopo. Ok, c'è problema, avanti Natali. Vai, a farti la doccia. Tutto da rigo, c'è Antonio oggi. È già condito. Ma già condito, Ma mi sa che da mangiare è duro, Non deve essere tanto buono. Un po' coriaceo, non è vero? Quindi se vai in Africa neanche lo calcolo, no? Quindi vogliono rubartene la mala sorte. Via. Cazzicina. Se vedono a me, magari a me. Meno ma ho recuperato 4 kg addirittura, perché dalla taglia 50 di pantaloni che avevo sono passata alla 44. Tu pensa quanto ho dimagrito, uno scheletro sono diventato. Ma allora neanche a te ti fuggono, Natali. No, se sei tutt'ossa non c'è niente a mangiare. Ehi, adesso già sto recuperando. Speriamo di recuperare un po' di peso. Piano piano, Natali, come tutte le cose. Ma tu dovresti essere molto più grande di me, no? Io sono del 57, quante volte? Ehi, allora siamo alla sorte, siamo uguali! Classe quasi di ferro, dai! Di ferro con alluminio, fai tu! Sì, classe di vero, come ci dicono a Roma. Quindi non ti vantare che sei più giovane di me. No, quando mi dico che sono vecchio sono contento, perché vuol dire che ci sono arrivato, capito? Piano piano, senza fretta, se no si rischia di cadere. Però l'importante è sempre camminare davanti. Povero chi non lo può dire che è vecchio. Noi che ci siamo arrivati a questa età, noi siamo giovani, oddio, non siamo così anziani, no? No, io sto ancora lavorando, quindi non è che posso dire cosa, però ma qualche acciacco si sente, è inutile negarlo, e non ne puoi fare più di tanto. E quello sì. Ma io in quest'ultimo periodo che sono così, se non stanno così bene, adesso sono decaduto tutto un colpo. Capita, la nostra è un'età un pochino strana, capito? Mai dire mai, basta non nulla che subito, ma il problema è anche che non abbiamo delle grandi strutture, capito? In continente si fanno le visite dal testa ai piedi e hanno una diagnostica molto più avanzata di quella che abbiamo qua a Sassari. Quindi se c'è qualcosa la trovano prima, e trovandola prima ovviamente le cure sono più efficaci, tutto lì. E a noi i nostri bravi signori che sono a Cagliari ci hanno trascurato troppo, hanno portato via mezza sanità, l'hanno disintegrata. E non è quello, i tagli sono malassorti. Se a me per fare un ecodoppler mi volevano mandare a Oristano, dimmi tu, ho telefonato 3 giorni dopo, mi sembra, torna, no? Come se non fosse successo niente, lo devo fare a Platanona, lì già vado a farmelo fare. Sì, ma guarda, è una cosa veramente impossibile, ma un eco, per fare un eco ti mandano di lì, ma questi sono fuori di testa, veramente, è una vergogna, no? Non è possibile, capito? I tagli, qualcuno le direbbe di tagliarsi qualcosa al posto di tagliare la sanità. Proprio quello che non dovevano tagliare l'hanno tagliato, noi siamo a questo punto per quello, per i tagli che ci sono stati. E allora, tutta la sanità tagliano. E poi sono tutti colpevoli, su quello non puoi dire destra, sinistra, centro, tutti uguali sono, hanno fatto veramente una cavolata per costringerti ad andare dal privato, capito? Hanno distrutto la sanità che ci avevamo, per quanto piccola fosse, eccetera, però almeno qualche esame riusciamo a farlo in favore dei privati. È una cosa, per carità, però loro gli stipendi non ci hanno rinunciato, anche ultimamente, non so se avevi letto sul giornale, che avevano bandito di nuovo delle procedure per avere di nuovo l'aumento dei loro stipendi, che già sono belli grassi, per tutti, a pioggia proprio, tanto paga pantalone. Sì, infatti, lì che si diminuiscono, se lo aumentano sempre lo stipendio. Ma vabbè, cosa vuoi dire, Natali? Sempre cambia la musica, cioè cambia la banda, ma la musica è sempre la stessa, dicevano. E allora, è così. Loro pensano a mangiare loro, degli altri non gliene frega niente, infatti, roba di danno hanno fatto. Sì, aspetta, se alle prossime salgono quei due, ne vedremo delle belle. Vedrai quanto daranno ai ricchi e toglieranno ai poveri d'ora, come hanno già fatto quando c'era il signore, il cavaliere. Altro che milioni di posti di lavoro, un altro per perdiamo anche le pensioni. Sì, infatti, di questi non c'è da fidarsi molto, no? No, anche perché comunque hanno una storia dietro, capito? Sono sempre stati a favore degli industriali, del grande capitale, capito? Di quelli che hanno i soldi, in parole povere. E anche adesso ne escono certe sparate che le tasse non le dovrebbe pagare nessuno, ma le tasse le deve pagare di meno, che ha pochi soldi, come dice la Costituzione, non fare gli sconti al ricco. Cavolo, già ne pagano poche, le devi pure diminuire. Cercano di far passare alla gente certe cose che sono scandalose, veramente improponibili. Uno rimane a bocca aperta dalla faccia apposta che hanno. Se uno vuole guardare gli stipendi, tutti gli stipendi dei privati, dei dipendenti pubblici, in realtà sono veramente bassi, ma bassi. Ci sono contratti che sono anni che non vengono rinnovati, che a tutt'oggi non sono rinnovati. Una vergogna, è una cosa che non si crede. Comunque, preghiamoci la salute natalizia, almeno quella, che già ce l'hanno tolta in parte, ma... Ah, io, guarda, c'avevo un amico che lavorava lì, in tribunale, e mi ha fatto vedere la busta paga. Guarda, uno stipendio da fame. E questo era autista e portava il presidente addirittura, ma dimmi tu. No, la cosa che ti dà fastidio è che la gente non ci crede, capito? Pensano che sei privilegiato, ma io non so se ti ricordi, c'era un bel film di Totò, no? Totò e il Lotto, credo che si intitolava, che lui voleva morire perché così almeno alla famiglia le dava i numeri del lotto e li toglieva dalla miseria più nera. E lì non hanno scoperto, a dare i numeri ci è riuscito, però poi l'hanno scoperto, l'hanno mandato davanti al Padre Eterno. E quella, ma non sa che lei qua in paradiso queste cose non si possono fare, e adesso mi tocca punirlo se veramente. E lui, ma io non l'ho fatto per cattiveria, l'ho fatto perché ero un povero dipendente statale e non sapevo più come mantenere i miei figli, la famiglia. E il Padre Eterno si è girato e ha detto, ma come? Lei era dipendente statale e non lo poteva dire subito, vada subito in paradiso, via. Lo ricordi? No, non l'avevo visto, troppo di lusso qui. Che lei era dipendente statale, lo poteva dire subito. E proprio mi ha fatto vedere la busta paga ed era vero che pigliava così. Prendevo più io quando lavoravo al comune che lui lavorando lì in tribunale. Io credevo che prendessero molto di più, invece altro che uia. Guarda, a me è capitato che eravamo io e altri miei due colleghi che siamo andati lì al Mocatos. Noi eravamo sempre vestiti in una maniera, insomma, particolare, e quelli, il padrone ci ha detto, questi ve ne fregate, guadagnate soldi a nastro, eccetera, eccetera, eccetera, sempre ben vestiti. E noi così ci siamo guardati, e guarda caso il mio collega aveva ritirato, cioè in tasca la busta paga. Ha detto, prego, ha detto, lei lo sa quanto bene, e voi state bene, e siamo bene perché ci abbiamo il posto sicuro, finché dura. E si è tolto la busta paga, e ha fatto, lega qua l'importo netto e tutte le tasse che ci tolgono. Se l'ha guardata, ha detto, ma è vero, lei lega le intestazioni, se è vero o no, lo Stato così paga. Cavolo, e dopo più al mio barista che è assunto da un anno. Visto. Molta gente non ci crede che è così, ma io ho visto con gli occhi miei proprio. Neanche io credevo che prendesse così poco. Prendevo più io che quando lavoravo al comune che lui, che lavorava in tribunale. Lui era dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia, questo amico mio buonanima, che è morto quest'anno di Covid, poveraccio. Purtroppo è così. Ma io mi ricordo anche mio padre, usciva dal lavoro, anche lui era nello Stato, usciva dal lavoro ed era un po', cioè era una di quelle persone che sapeva fare veramente tutto e faceva mille lavori, cioè tu chiedevi di fare il fabbro, lui sapeva fare il fabbro, sai, apparteva quella generazione di persone che avevano fatto tanti di quei lavori, però i soldi non bastavano, vestito perché ce l'ho tre figli a mantenere, mandarli a scuola, educarli, e quindi doveva fare anche, è uscito dal lavoro e ritornava a lavorare. Era così, non c'era il tempo di divertire, anzi il divertimento no, non c'era proprio, perché quando sei povero no, con cosa ti diverti, capito? E infatti io già lo so, e poi non costa fare studiare i figli, sembra così, ma è un sacrificio enorme. Ma guarda, io ho dei colleghi che hanno i figli, che hanno solo stipendio perché il marito magari ha perduto anche il lavoro, ce ne sono un paio in questa situazione, e non è una bella situazione, ecco, perché sai come sono anche i figli da adesso, non c'hanno... noi ci accontentavamo di poco, ma adesso devi avere la scarpa di marca, devi avere questo. Non tutti i ragazzi capiscono che i genitori non ce la fanno ad essere come i figli di qualche imprenditore, i figli, è ovvio che un po' di invidia ce l'hanno, sono ragazzi, però per i genitori stare dietro a queste cose è veramente un sacrificio, e rinunciano a tante cose, insomma è una cosa un po' diversa rispetto, noi in un certo senso ci eravamo abituati, ecco, non avevamo così tante necessità come quando ci dava un giocattolo, ci dava qualcosa, eri contento. Se andava in Piazza Tola all'epoca, non nei grandi magazzini a prendere roba costosa, te lo ricordi Natale in Piazza Tola o Piazza Zuni? Io già me lo ricordo già. Ma noi ci accontentavamo, adesso non ci accontentano, e gli devi dare la paghetta, e se non è roba di marca non se ne mettono, è un macello, perché l'amico c'ha le scarpe marcate tutte, loro le vogliono così, se non se ne mettono. Da poco la figlia di una mia amica gli ha fatto questo pezzo, gli ha comprato questa bella tuta, si è accorta subito che non era di marca e ha detto che non se ne mette. E quelle sono le persone che poi si trovano in difficoltà, perché quando poi le cose vanno ancora più male, hanno questo impatto, che colpa ne hanno i genitori se non possono, già mandare, come ha detto prima, a studiare le persone è molto costoso. Io mi ricordavo che andavamo, ci davano il buono per i libri, no? A chi non raggiungeva determinati redditi, e quelli che ti mancavano, siccome li pagavi, costavano veramente cari, li andavi a prendere lì in quelle bancarelle a seconda mano, usati. Allora, i libri a seconda mano o te li vendeva uno che era nella classe più alta della tua, ti vendeva il libro e tu te lo prendevi a seconda mano. Si faceva così prima. Ah va, oi. Stiamo parlando di libri di scuola superiore, se poi quelli ad esempio di laurea, guai, cioè proprio non. Dovevi andare in biblioteca, ricopiare quello che ti interessava e campare così, ma anche oggi ce ne sono tanti che devono fare così, che devono fare questi sacrifici perché proprio i soldi non ci sono. E purtroppo, insomma, prima di potere, molta gente parla, però poi alla fine sa ben poco di come vivere nel disagio, ecco. Tra l'altro anche con famiglie che in ogni caso i figli li hanno educati molto molto molto bene, ecco. Lo credo, io io ho avuto i miei cugini che erano ricconi, eppure hanno studiato dai libri di mio padre. Capito? Hanno studiato. Perché ma io ho anche mia compagna, eravamo tutti così, i miei compagni, c'era il padre che era, mi ricordo, all'Enel, allora insomma stare all'Enel era un ultimo posto, però anche la mamma doveva lavorare perché proprio non ce la facevano, perché c'erano tante spese, all'epoca ti dovevi pagare anche la casa, se avevi il mutuo. Soldi già lo sai come li davano, no? Col contagocce, se manca una rata erano guai, allora c'erano anche le cambiali, non ricordo, quei pabirotti. E alleluia. Io guarda, per esempio, il figlio di mia moglie, uno era quasi laureato agronomo, guardate, vuol dire, gli mancavano pochi esami, adesso è in convento ed è perito agrario quello, l'altro perito elettronico sta lavorando a Olbia, quello fa il falegname, cioè falegname, lui ha detto alle macchine, capito? Ed è perito elettronico Antonello. Dimmi tu. È così. Guarda, io mi ricordo una scena quando ero militare a Napoli, per dire che se poi le cose le guardi bene, devi sempre dire io in fondo sono stato molto molto fortunato. Ero militare a Napoli e c'era questo ragazzo della Calabria che mi ha visto telefonare, allora te li ricordi i telefoni della SIP, no? Quelli a gettoni. Io mettevo i gettoni e telefonavo a casa, o meglio i gettoni ne mettevo pochi, poi c'era il trucco, no? Per non far scendere il gettone quando scattava. E praticamente riuscivo a stare un po' di più al telefono, un gettone magari ci stavi molto di più di non averci. Questo ragazzo guardava in giro e poi ha vinto la timidezza e mi ha detto ascolta, ma non puoi fare in un linguaggio, guarda, che neanche capivo, perché questo parlava un mezzo dialetto. E questo ragazzo mi ha detto ma non puoi fare una cortesia, mi puoi telefonare a casa? E ho detto ma i gettoni non ce li hai, scusa. No, non lo so usare, no. Ma ci sono i numeri, ma io i numeri non li conosco, cioè guarda, mi è venuto questo coso, ascoltate, guarda, te lo pago io, non ti preoccupare, io allora facevo molte missioni fuori, no? Fuori Napoli e l'esercito te le pagava. Mi è venuto questo coso, guarda, ci penso, tu non ti preoccupare. Ho fatto il numero, ma guarda, il ricordo mi è rimasto talmente impresso e mi sono subito ricordato, ma alla fine noi stavamo anche bene in confronto a questi ragazzi che erano veramente, cioè non conoscevano neanche l'uso di un telefono. Ti immagini, Natalia? Me l'immagino, sì, poverino. Così che non sapeva leggere, conosceva solo i soldi, sapeva contare, però a modo suo, perché non sapeva leggere questa donna. Era la mamma di mia cognata. Questa qui non sapeva leggere, però li conteva, si rivasia, buzzinosa, a modo suo, e non sbagliava, una calcolatrice. Sì, c'era anche quelli lì, per i soldi, ma la sorte, c'erano anche quelle cose. In un'epoca abbastanza, insomma, non è come hai detto prima, non è che siamo così ricchi, però nonostante tutto vedevi questi ragazzi, queste persone che proprio non avevano avuto istruzione alcuna ed era una cosa di una tristezza, questo andava a portare del pecore, no? avevamo le pecore in un posto dimenticato dal cielo anche, stava a fare solo quello, portare al pascolo le pecore e basta, da quando era bambino. E non ho imparato a mettere la firma alla nonna della mia ex, di quella che c'era 10 anni. Questa donna non sapeva né leggere né scrivere, poverina. Beh, gli ho preso la mano io piano piano, fino che sono riuscito a fargli mettere la firma. Beh, i figli quando hanno visto che lei firmava si hanno messo le mani in testa. Ma come fa? L'ho insegnata io. Così purtroppo. C'erano dei colpi importanti, però non so se sia preparazione. Io ho lo squelcio molto alto, perché prima mi stavano uscendo, vediamo un po' da basso. C'è qualcuno che vuole entrare? No, forse la propagazione. E così Natalie, almeno questa esperienza di vita ce la siamo fatta. Vedi, erano tempi duri, sicuramente erano tempi duri, però erano anche, adesso è bello perché ci sono tante cose, si può comprare tante cose, se insomma c'è possibilità molto differenti, ecco. Però allora la cosa bella era che ti accontentavi di poco anche, per certi versi eri anche più felice, ecco, perché ogni piccola cosa era guadagnata, insomma tante cose belle. Tu pensa, io non sono andato a scuola per colpa mia, perché babbo mi convinceva ad andare a studiare, però a me mi piacevano i soldi di entrare. Ed è stata colpa mia che ho fatto la terza media e basta. Ma io l'intelligenza e la cultura che ho io non ce l'hanno manco gente che ha fatto le superiori. Figurati. A quest'ora c'è stato, non lo so, che avessi studiato, solo che me ne sono andato a lavorare perché a me piacevano i soldi. Perché io da bambino andavo a lavorare e poi a scuola. Alla fine, quando ho raggiunto la terza media, mi sono ritirato. Babbo non ne faceva la vita, c'aveva una cultura quell'uomo lo stesso. Natalie, è così, tu a volte fai sacrifici per i figli e i figli poi piace il divertimento, ma da ragazzi sei così, se non ci sei nato proprio per abitudine a capire le cose, è un po' dura poi anche la vita che viene poi, ecco. La scuola comunque, io dico sempre, è una cosa essenziale, perché è vero che anche molti che sono laureati non ci hanno posto, eccetera, eccetera, però prima o poi arriva, bisogna solo tenere duro, quindi è così, solo adesso c'è molti giovani commettono l'errore di pensare che spaventi tutti subito, anche in maniera spiccia, e questo li conduce verso strade non buone, e quindi molte famiglie a volte si trovano letteralmente rovinate. Sì, è proprio vero. Babbo si batteva per farmi studiare, invece io me ne sono voluto, infatti avevo sempre più soldi di tutti i miei amici, però chi si è diplomato, se per esempio Giuseppe quello lì l'avevo fatto rientrare io, perché era carabiniere ausiliario lui, però era ferito chimico alle industriali, era diplomato, per rientrare ha dovuto rinunciare e entrare con la terza media, se no non l'avrebbero preso se era diplomato. Purtroppo così, e all'epoca sotto armi si andava proprio per bisogno, molti anche per passione, però non è come adesso è molto molto difficile entrare, sono tutti professionisti, l'addestramento è molto molto duro. Io ho visto anche il concorso per maresciallo, no? Quando eri già nell'arma ti davano il concorso per maresciallo, ma mi si sono veramente rizzati i capelli che non ho. Allora, conoscenza decente della lingua inglese, e poi cultura generale molto nel dettaglio, non parliamo poi di norme di polizia giudiziaria. Guarda, sono rimasto a bocca aperta, allora, ma qua quanti ne passano? Infatti ne passano pochissimi. Insomma, anche di lì adesso è richiesta una preparazione veramente allucinante. Ecco, infatti questo qui se n'era andato, gli avevano promesso il posto di lavoro, poi hanno fatto i farfarielli e è dovuto rientrare a fare il carabiniere, questo qui poveraccio. Oh, meno male che poi ha fatto carriera, si è congedato col grado di luogotenente ed era comandante di stazione lui a Tiesi, cosa dico io. Era maresciallo maggiore lui quando era comandante di stazione e poi si è congedato col grado di luogotenente, chissà quanto prende di pensione. C'è stato un break, Roberto, mi è sembrato. Avanti. Sì, buonasera, ciao Gianfranco e ciao Natalino, non so se ci sia qualche domanda, comunque anche l'eventuale che sia le altre persone, saluto tutte le altre. Di nuovo a te Gianfranco. Sì, stavamo facendo come avrei sentito un discorso, come si dice, retro dei tempi passati, di quando si era ragazzi. Una caratteristica di chi è anziano, non dico vecchio, se no sembra una cosa quasi a sotto, si tende sempre a vedere come si stava prima, ma essenzialmente per il motivo è che eravamo tutti più giovani e quindi adesso ci abbiamo qualche acciacco, qualcosa che non ci piace. A volte ci lamentiamo, ecco, però tutto sommato, insomma, siamo tra quelli che ce l'hanno fatta, ecco. Riprendi Roberto. Più o meno l'ho preso come te, non c'è problema. Vai Natalia. Roberto già ne sa qualcosa, signor Giovanzino è addirittura. Noi da ragazzino, io sono uscito dalla scuola, dalle elementari, d'estate si andava a lavorare, diciamo a lavorare relativamente, però eravamo presenti in officina, piccole fesserie, tieni questo, fai quello, prendi quello, però già qualcosa. Poi quando diventi già più grandicello, a tempo pieno, diciamo. Più o meno abbiamo fatto tutti lo stesso, perché i padri allora dovevano portare la pagnotta a casa. E anche se c'avevamo il lavoro, come stavamo parlando con Natalino, i soldi erano sempre pochi perché le paghe erano quello che erano, a prescindere di quello che facevi, quindi purtroppo era così. E comunque non per questo, grazie ai nostri genitori, siamo riusciti a crescere e a diventare soprattutto persone che amano l'onestà, ecco, innanzitutto con quei valori che sono ben radicati nella nostra memoria. Sì, quello sicuramente, ci hanno dato delle belle educazioni e ce le stiamo riportando appresso anche per chi ha i figli, li ha cercato almeno di trasmettere, anche se devo dire i ragazzi di adesso certe cose noi non neanche ce le sognavamo a livello di rispetto, di educazione, c'è molta più libertà verso gli anziani, diciamo, li vedono in un modo diverso, noi invece quando vedevi un anziano ti fermavi, lo accompagnavi, se c'era il posto a sedere glielo lasciavi. Allora i ragazzi d'oggi raramente lo fanno poi. E purtroppo è così, cioè molto... Vabbè. Sarà che stiamo diventando, come si dice, troppo... siamo abituati a un'educazione troppo rigida e quindi per noi certe cose sono... non sono accettabili, dai. Però bisogna anche essere un pochino flessibili, non troppo, però bisogna capire anche loro che la situazione adesso è diversa. C'era qualcuno che chiamava sotto, avanti chi chiama, non so se la propagazione, però c'era qualcuno che chiamava avanti. Dove sei? Ti sento, però non ho capito dove sei. Ti sei Santiago 8 qua, però c'è mezzo al QRM, non ho capito chi sei. Chi sei, Nicola? Sì, ti sento, ma dimmi il nome, se non dici il nome non capisco. Sì, sceriffo, da dove stai modulando tu? Sì, io ti ascolto, e che zona sei? Di dove? Non ho capito dove sei. Lo sentite meglio di me, Giafra? Cimitero Nuovo, ciao a tutti. Cimitero Nuovo? Sì, ti ascolto, però la voce un po' disturbata. Ciao Giulio, mi hai sentito? Cimitero Nuovo, sei 8 adesso, sei arrivato. Già fra, tu l'ascolti? Sento che parla e io non so QRM quasi, però non riesco a capire quello che dice. Cimitero un po' strano. Comunque va anche a Giulio, riprendi. Ok, ciao Giulio, ciao Roberto e Natalino. Adesso che sta modulando dal cimitero